giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Note di devastazione in gran parte della regione, 3 province flagellate dalla grandine, eventi meteo senza precedenti. Mortegliano, la località più colpita, distretto sanitario scoperchiato, inagibile la casa di riposo, i 90 ospiti vengono trasferiti. Tetti scoperchiati, tegole, finestre in frantumi, danni gravissimi, la giunta regionale stanzia subito 50 milioni. Agricoltura in ginocchio, compromessi in alcune zone in raccolti, la prossima vendemmia. Sul Coglio la grandine ha provocato il 30% delle perdite a Oslavia. I RIS sono tornati questa mattina nella casa di Pantianicco, si cercano le impronte dell'omicida di Benita Gasparini. Navi commerciali a propulsione nucleare, Fincantieri partecipa allo studio di fattibilità. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Dario Ronzoni. Subito 50 milioni per i danni causati dalla sferzata del maltempo della scorsa notte, in particolare le devastanti grandinate che hanno colpito una vasta zona tra il Pordenonese e il Coglio. L'annuncio poco fa da parte del Presidente della Regione, ne parleremo in dettaglio più avanti. Ora subito le notizie da quella che è probabilmente l'area più colpita, il territorio di Mortegliano, dove tra l'altro è stato in pratica scoperchiato il distretto sanitario che serve un'utenza di 6.000 persone, inagibile la casa di riposo i cui 90 ospiti vengono trasferiti in queste ore ad Aiello e a Ronchi. Scenario impressionante quello provocato da chicchi di grandine come palle da tennis, con i muri delle case crivellati, finestre e tegole in frantumi, automobili distrutte. Il servizio di apertura. Mortegliano è la città di gran lunga più in difficoltà, il comune stesso è parzialmente inagibile, c'è acqua che piove dentro, innumerevoli le finestre rotte in questo comune, rotte anche proprio nel municipio, i tetti non esistono più o perlomeno rimangono solo delle tegole spostate, ma le infiltrazioni sono continue un po' ovunque, anche perché è continuata a piovere nella mattinata. Ci sono auto distrutte, se ne stimano addirittura 300 che probabilmente andranno rottamate. Danni davvero in questo momento impossibili da calcolare. Chiediamo al comandante della Polizia Locale di Mortegliano, Pier Giuseppe Gallo, qual è la situazione? La situazione dal punto di vista dei danni è tragica. Non abbiamo contezza di un immobile comunale che sia ancora agibile, come tutti i veicoli sono tutti da rottamare, anche quelli del comune. Mezzo comune inagibile proprio in maniera sostanziale, stiamo spostando gli uffici. La casa di riposo è inagibile, tutti gli ospiti sono stati dirottati su altre strutture regionali. Non abbiamo per fortuna contezza di danni alle persone. Però comune di Mortegliano non esiste di più, sembra un territorio di guerra. Il centro di assistenza primaria, dove ci sono medici, veterinari, è stato trasferito sostanzialmente nella parte non danneggiata della scuola primaria. Anche lì si è rischiato tanto, c'era una guardia medica questa notte lì sola. Sì, e anche quell'area là è completamente inagibile. Siamo riusciti a reperire un pezzettino della scuola primaria per poter mettere a disposizione delle persone che hanno bisogno dei dottori un minimo di servizio, ma siamo completamente in emergenza, stiamo cercando di risolvere i problemi di tutti, ma non è facile. Tenga presente che abbiamo un problema irrisolvibile, tipo tutte le vecchie tettoie o immobili in Eternit che sono tutte al suolo, quindi non riusciamo in questo momento a dare queste risposte. Evacuata dunque la casa di riposo, dicevamo, trasferito il CAP, il centro di assistenza primaria. Ieri sera ci sono stati anche dei feriti, abbiamo parlato con una signora che ha dato riparo a una famiglia che stava viaggiando in auto, l'auto letteralmente esplosa, i vetri sono esplosi, questa famiglia ha trovato riparo in questa casa, erano tutti insanguinati e poi sono stati portati in ospedale, per fortuna niente di grave dal punto di vista delle conseguenze sanitarie. Tutto è accaduto molto rapidamente, raccontano i testimoni ieri, in 5 minuti è successo il finimondo, tra l'altro con un preavviso molto relativo, praticamente si è passato da zero vento a una tromba d'aria. Una tempesta, sì, e questo è stato il peggiore evento che credo sia a Mortegliano negli ultimi 100 anni. Ma levando questo, siamo stati solo fortunati che è successo a un'ora di sera che c'era poca gente in giro, perché sennò poteva veramente essere una tragedia. Eh sì, si sono viste grandinate grandi come chicchi di grandine, grandi come arance, è stato detto, nemmeno come limoni, ma proprio come arance. E da Mortegliano è tutto, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La notata da incubo in un'ampia fascia delle province di Pordenone, Udine e Gorizia è stata contrassegnata da circa 2.000 chiamate al numero unico di emergenza, secondo fonti della Protezione Civile. Grave anche la situazione nell'area di Codroipo. Sentiamo. Da Basigliano a Lestizza a Codroipo, tre le ondate di maltempo questa notte, la peggiore però quella poco dopo le 21 di ieri sera, con la grandine che cadeva con chicchi grossi anche come uova. È durata una quindicina di minuti, rinforzata dal vento di tramontana, e i danni sono evidenti. Diversi gli alberi abbattuti ancora lungo le carreggiate, e poi i campi di mais falciati, con il raccolto che per molti è andato per quest'annata letteralmente in malora. A Sclaunicco, nel comune di Lestizza, la grandine ha fatto l'effetto di una sassaiola contro le vetrate della chiesa, rotte. Come rotte sono anche moltissime tegole del campanile. A Basigliano la scuola primaria ha tutti i vetri rotti dai chicchi della grandine, e poi le automobili con i parabrezza riportano danni evidenti. In alcuni casi anche le facciate delle case rivolte a nord portano i segni della grandinata, che ha fatto l'effetto di una mitragliata, soprattutto contro le coperture a mo' di cappotto delle case. Rotti anche diversi pannelli fotovoltaici. A Bicinicco è stata scoperchiata la scuola, e nella zona industriale di Codroipo alcuni capannoni artigianali hanno avuto il tetto danneggiato, e ora che ha ripreso a piovere l'acqua sta entrando e sta bagnando macchinari e semilavorati. Basigliano, Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. Secondo le organizzazioni degli agricoltori, in numerose aziende è stato distrutto fino al 70% dei raccolti, con punte dell'80%, dicono Franco Clementin e Franz Fabez, presidente della Kmečka Zveza. Coldiretti chiede al governo il riconoscimento dello stato di calamità per l'agricoltura. Il nord Italia, segnala l'organizzazione, ha fatto segnare solo ieri ben 44 tempeste di vento e grandine che hanno colpito città e campagne con danni incalcolabili. Drammatica la situazione anche nel meridione, con molti raccolti bruciati dalle temperature sopra i 40 gradi. Sono importanti i danni anche alle attività zootecniche per le coperture di stalle sfondate e le difficoltà a mettere in sicurezza le strutture. Sentiamo dal Goriziano a Gabria e a Savogna, dove sono stati devastati numerosi insediamenti produttivi. I tetti delle villette tappezzate di pannelli fotovoltaici sembrano essere stati presi a sassate. Le porte tagliafuoco delle aziende martoriate come da proiettili. Due gettate di grandine a distanza di un paio d'ore l'una dall'altra hanno sfondato tetti dei capannoni, colpito i macchinari. La zona industriale e artigianale della provincia di Gorizia, in particolare a Savogna, è in forte difficoltà. Per salvare il salvabile, i titolari di aziende e i loro dipendenti fianco a fianco per mettere in sicurezza la produzione. Siamo venuti nella pausa tra una grandinata e l'altra ieri notte, ci racconta Magda Tomsic, a capo di un'azienda che produce macchinari per la tessitura. Tutti i nostri dipendenti sono venuti qui ad aiutarci. Non ci ha piegato il Covid e non ci piegherà neppure questa brutta tempesta. Bagnati fradici gli animali di una stalla di Gabria. Mucche e cavalli si lamentano per la fame, ma il vetro è disseminato nel fieno. Zuppo d'acqua va cambiato. I titolari della fattoria fanno quello che possono. C'è il rischio che mangiando si feriscano, racconta la titolare Silvana Kotic. Pazzesco, qui dove lo scorso anno avevamo le fiamme a due passi da casa con gli incendi di San Michele del Carso, ora c'è la tempesta. Mai vista una grandine così, racconta il marito, era grande come dei mandarini. Alla Velmet, multinazionale finlandese che vende in tutto il mondo macchinari per la produzione di carta, operai impegnati a raccogliere l'acqua, a coprire con teli i macchinari. Anche gli uffici sono inagibili. La grandine ha sfondato le auto aziendali. A guardarla da fuori, la galleria del vento, Areo Tunnel di Savogna, sembra inagibile. La copertura esterna è crollata e invece dentro si lavora normalmente. L'acqua è entrata solo in piccole zone. Nella sfortuna, dice il titolare, ci sentiamo miracolati. Savogna, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il maltempo ha colpito anche i collegamenti ferroviari. Nella serata di ieri ha provocato un guasto, è stato originato un guasto all'altezza di Codroipo che ha reso necessario l'impiego di bus sostitutivi per coprire il resto della tratta. Oggi continua a essere rallentata la circolazione dei treni con ritardi fino a 30 minuti tra Udine e Venezia e fino a 10 minuti tra Udine e Trieste. Nel frattempo è stato ripristinato il traffico sulla regionale 42 che porta a Resia, prima interrotta per la caduta di un masso, ne ha dato notizia la sindaca Anna Micelli. Personale dell'EDR sta comunque monitorando la situazione. E ora la situazione dal Pordenonese, in particolare da Sacile. Abbiamo ingenti danni al tetto perché abbiamo tanti coppi rotti e un cupolino completamente rotto. Noi abbiamo il salotto dove praticamente ci sta piovendo acqua dal soffitto. E speriamo non venga più grandine, perché veramente qua è il disastro, un disastro. Cioè, io sono proprio scioccata da ieri sera. A Sacile, abitazioni con i tetti saltati e l'acqua in casa, muri crivellati dalla forza di vento e grandine che ha colpito anche automobili e pannelli fotovoltaici, lasciando i suoi segni evidenti. Il tetto è tutto bucato da prima stanotte alle 11 e adesso ha dato la colma. La fortuna che c'è la rete sotto e ora ha portato un po' di mio aiuto. È una bella spesa sicura, questa battaglia qua non ci voglio proprio. Almeno 4 le persone cadute in casa o nelle pertinenze dell'abitazione perché scivolate su superfici allagate. Particolarmente colpita anche Brugnera, dove alcune abitazioni sono inagibili. Abbiamo i tetti che sono andati tutti distrutti, tutti i coppi, abbiamo dei lucernali sopra che sono rotti, è entrata acqua e ho anche tutta la parete esterna, che è quella isolata che è a nord, che si è tutta distrutta. E poi abbiamo tutti i pannelli solari che sono andati via, quasi tutti. Coppi rotti, e grondaie massacrate, muri. I fotocelli, le cancelli, impianto elettrico. Tutti i furgoni, la tenda qua e comunque dopo tutte le parti della macchina e nei capannoni a San Giovanni di Livenza. Sacile, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. 50 milioni di euro subito per gestire l'emergenza. L'iniziativa annunciata dalla Giunta regionale diventa di iniziativa del Consiglio con la firma di tutti i capigruppo che auspicano che la cifra possa salire ulteriormente. Visto che per stessa ammissione del presidente Fedriga la quantità è importante ma non sufficiente. L'emendamento è una prima risposta alle esigenze di cittadini e imprese, ha detto il presidente della regione. Sentiamo le sue parole e quelle del consigliere dell'opposizione Massimo Morettuzzo. Abbiamo ingenti danni sia a proprietà private, penso tutta la parte dell'agricoltura che è stata fortemente colpito, quindi sicuramente una situazione molto difficile a cui cercheremo di dare una risposta immediata. Firmeremo la dichiarazione dello stato d'emergenza, stiamo predisponendo un emendamento, essendo oltretutto in legge di assestamento, per stanziare le prime consistenti risorse per i ristori e ipotizziamo un emendamento che vada sui 50 milioni di euro, una cifra molto importante. Una cifra che lei ha detto che comunque potrebbe non essere sufficiente, che parlerete col governo? Sì, ho già sentito sia il ministro Musumeci, il ministro Salvini, il ministro Lollobrigida per segnalargli questa situazione estremamente difficile che purtroppo oltretutto ha colpito anche altre aree del paese e ovviamente c'è la vicinanza del governo e penso metteranno anche in campo lo stesso governo delle misure per andare a fronteggiare questi danni enormi che sono stati creati nei nostri territori. Noi abbiamo dato la massima disponibilità a collaborare con la Giunta per affrontare questa situazione che è davvero drammatica. Noi speriamo che i 50 milioni stanziati inizialmente, o l'intenzione di stanziare 50 milioni, possa anche aumentare perché i danni sono molto cospicui, dobbiamo essere vicini alle comunità, alle famiglie, alle imprese del Friuli Venezia Giulia che hanno subito il maltempo. È una di quelle occasioni in cui la politica deve lavorare assieme e non dividersi. Quindi da emendamento di giunta diventa emendamento di consiglio? Noi abbiamo dato la nostra disponibilità a sostenere questa iniziativa e quindi volentieri sottoscriviamo questa scelta. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin ha espresso solidarietà da parte di tutto il Consiglio ai cittadini che stanno vivendo una situazione particolarmente difficile. Abbiamo visto, ha detto, tutti immagini devastanti, terribili, ci sono comunità colpite in maniera forte, fortissima. Naturalmente la nostra vicinanza non può che essere massima, perché immaginiamo lo sconforto e la paura provata dalla gente. Il Friuli Venezia Giulia ha affrontato nella sua storia tante situazioni difficili, dice ancora Bordin, questa è nuova per la dinamica che l'ha vista e la gravità, ma c'è la certezza che ancora una volta i cittadini insieme alle istituzioni sapranno mettere in atto azioni per risollevarsi e ripartire. Di fronte a questo disastro resta importante capire quali siano state le cause che hanno provocato questi fenomeni meteorologici. Ce lo ha spiegato Marcellino Salvadore dell'ARPA. Contrasto tra l'aria molto calda preesistente sul bacino del Mediterraneo fino al livello delle Alpi e poi la concomitante presenza al di là delle Alpi di aria fredda o più fresca, con correnti di conseguenza da ovest-sud-ovest, ha provocato la genesi di questi temporali così forti, che sono appunto frutto del contrasto tra l'aria particolarmente calda e umida dei bassi strati con quella più fresca in quota, che poi riesce anche a scendere dalle Alpi e innescare questo tipo di temporali particolarmente forti, che riescono ad avere correnti ascensionali del livello di 150 km all'ora e quindi sono velocità che possono sostenere chicchi di grandine che sono grandi anche oltre 10 cm di diametro. Questi due episodi sono stati successivi, diciamo, in un paio d'ore. È rarissimo vedere una cosa già di per sé, un episodio solo, a vederne due nel giro di 2 o 3 ore è veramente qualcosa di eccezionale, almeno per la nostra regione. È segno che qualcosa sta cambiando. Senz'altro il fatto che le temperature erano da giorni sopra la norma del periodo e siamo già nel periodo più caldo dell'anno vuol dire che c'è anche più energia. Quest'anno il Mediterraneo siamo già 1,5-2 oltre il livello medio normale di temperatura. Questo fornisce più energia sia dal punto di vista della temperatura che del vapore d'acqua, e questo poi quando ci sono le condizioni con delle correnti fresche in quota, soprattutto nella direzione a noi più pericolosa, quella da ovest o sud-ovest, può generare questi temporali così violenti, così forti, che sono appunto alimentati da energie nei bassi strati che sono decisamente rare e al di fuori di quello che era la nostra climatologia. Quindi dovremo aspettarcene altri così in futuro? Beh, è chiaro che avere a che fare con temperature di 35 gradi d'estate e mari sempre più caldi vuol dire correre questo rischio in maniera più frequente, cioè la probabilità che questo accada chiaramente diventa più elevata col passare degli anni e quindi con la tendenza al riscaldamento globale che è in atto ormai da decenni. L'emergenza non è finita neanche per quanto riguarda questo episodio, intanto, perché l'allerta meteo gialla emanata dalla Protezione Civile si chiuderà solo alla prossima mezzanotte. Intanto diamo uno sguardo ai valori meteo per quanto riguarda la stretta attualità. Abbiamo temperature registrate alle 11, a Trieste 24 gradi, il mare quasi calmo con temperatura di 26 gradi e mezzo, a Pordenone 21 e 5 decimi, a Gorizia 21, 20 gradi a Udine, così come a Tolmezzo, a Tarvisio, a Forni di Sopra e a Sappada 17, su Lussari 11 e 5 decimi, sulla costa Lignano 25 e mezzo, a Grado 24 e mezzo, con temperatura del mare nelle due località 26 gradi. E per quanto riguarda le previsioni, nelle prossime ore avremo nuvolosità variabile con temporali diffusi alternati a fasi di tempo migliore. I temporali potranno essere forti anche sulla costa, mentre domani il cielo sarà in genere variabile con delle piogge residue più probabili al mattino sulla fascia orientale e nel pomeriggio come rovesci a ovest. Si avranno comunque anche ampie schiarite, l'aria sarà decisamente più fresca e secca rispetto ai giorni precedenti e sulla costa soffierà bora moderata. Sono le 12.49, ora voltiamo pagina. Pantianico, Iris sono tornati questa mattina nella casa di Benita Gasparini, assassinata a coltellate 7 giorni fa. I carabinieri del reparto di investigazioni scientifiche si stanno concentrando sulla ricerca e sul rilievo delle impronte. Secondo giorno di rilievi da parte del RIS di Parma, il reparto di investigazioni scientifiche dei carabinieri, a Pantianico di Mereto di Tomba, dove è stato rinvenuto mercoledì scorso il cadavere di Benita Gasparini, 89enne, uccisa con 2 coltellate alla schiena. e sull'auto sequestrata dall'autorità giudiziaria il giorno dell'omicidio al figlio Luca è custodita nella caserma dei carabinieri in Viale Trieste. Nella prima mattinata gli uomini al comando del maggiore Cristian Facinetto si sono concentrati sull'auto alla ricerca di elementi, accompagnati dai consulenti dell'associazione I Nostri Diritti di Udine, che su incarico dei familiari e in particolar modo del figlio Gabriele stanno seguendo la vicenda. Linda Pontoni, criminologa. Hanno iniziato prima dei rilievi con il Combur test, quindi per verificare la presenza di sangue umano all'interno dell'autovettura, dopodiché sono passati a un'ispezione con il Luminol. Entrambe queste ispezioni hanno dato esito negativo. Nella tarda mattinata l'arrivo del personale del RIS di Parma alla casa, dove con tecniche particolari si concentreranno sulla ricerca e repertamento delle impronte digitali. Pantianicco di Mereto di Tomba, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Nucleo, azienda di tecnologie nucleari pulite, Fincantieri e la multinazionale di certificazione navale RINA hanno firmato un accordo per realizzare uno studio di fattibilità per applicazioni nucleari nel settore navale. L'obiettivo è sfruttare per la propulsione navale i piccoli reattori modulari raffreddati a piombo creati proprio dal Nucleo. Il risultato potrebbe avere sulle navi una piccola batteria che produce una potenza elettrica di 30 megawatt. Tra i vantaggi, sottolinea la nota, c'è la necessità di fare rifornimenti solo una volta ogni 10-15 anni, una manutenzione molto limitata e una facile sostituzione del reattore a fine vita. L'utilizzo dell'energia nucleare pulita per alimentare le navi contribuirebbe, continua la nota, a decarbonizzare il settore. Sanità, la CISL ha presentato a Udine la propria piattaforma di proposte e idee da sottoporre alla Regione, compresa una stima delle spese necessarie da sostenere per coprire tutte le necessità dell'offerta sanitaria. Servono 200 milioni di euro subito per sanare i disavanzi delle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia e altrettanti per coprire l'offerta sanitaria e garantire i piani di assunzione e le stabilizzazioni, oltre che gli investimenti in tecnologie e manutenzione degli immobili. Sono stime della CISL, che ha elaborato una piattaforma sanità, presentata oggi a Udine, che sarà sottoposta alla Regione. Per i primi 200 milioni si dovrebbe riuscire a far fronte con fondi del piano sanitario e variazioni di bilancio. Per gli altri 200 non c'è ancora alcuna certezza. La segretaria della CISL del Friuli Venezia Giulia, Renata Della Ricca, ha evidenziato come quella dei fondi per la sanità regionale sia ancora una coperta molto corta, con ricadute negative sul personale sanitario, sull'utenza e sulle aspettative di prestazioni. Altre voci portanti della piattaforma sindacale sono legate alle criticità di territorio, alle liste di attesa, assistenza agli anziani e personale. Sono necessari, è stato evidenziato, cambi di paradigma che dovrebbero passare tramite il potenziamento del distretto con ruolo di regia assistenziale e promuovere la presa in carico delle persone, sviluppando la rete della medicina territoriale, aumentando le strutture per i post ricoveri e implementando anche il pronto soccorso. Tra gli obiettivi del sindacato è sottolineata la necessità di arrivare alla massima integrazione tra sociale e territorio, il rafforzamento delle cure di prossimità e la prevenzione per dare risposte e sostegno anche al tema della fragilità. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Una notizia di cronaca: un romeno di 42 anni è stato denunciato dalla polizia locale di Trieste in seguito alle indagini su un furto avvenuto in un'abitazione in via del Timo la notte del 30 giugno. L'uomo era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e, nonostante indossasse un cappuccio, è stato individuato dopo essere stato sottoposto a un controllo in Porto Vecchio per l'occupazione abusiva di uno stabile comunale. Dovrà rispondere così anche di questo reato, oltre che a quello del furto. La pagina della cultura è stata riaperta oggi, una sezione ridotta della Pinacoteca di Palazzo Athens Petzenstein a Gorizia, in questi mesi temporaneamente chiusa, per lasciare spazio alla mostra Italia 50, Moda e Design. Nelle sale della sezione riaperta saranno presenti anche alcune nuove acquisizioni della Pinacoteca, tra le quali la tela Cielo e Tetti, opera del 1903 di Josef Maria Auchenthaler, e Autunno e Vendemmia, realizzate da Cesare Mocchiutti rispettivamente nel 1957 e nel 59. Gli spettacoli al Mittelfest di Cividale sono in programma oggi, due prime assolute al Ristori alle 20.30, Le gratitudini, adattamento di Paolo Tristino dal romanzo di Delphine de Vigan, e in precedenza nella chiesa di San Francesco Il castello del principe Barbablù in forma di concerto di Béla Bartók, frutto della cooperazione di istituzioni musicali italiane tra cui il Conservatorio Tartini di Trieste e serbe. Al Miela di Trieste per il Festival del Litorale, Marta Cuscunà in scena con Corvide, Sguardi di specie, che questa sera viene presentato per la prima volta anche nella lingua dei segni. L'inizio alle 21. A Gorizia al Premio Midei è la giornata del premio dell'opera d'autore, quasi interamente dedicata a Marco Bellocchio. Tra le opere della retrospettiva, alle 16.15 la proiezione del celeberrimo I pugni in tasca, cui seguirà alle 18 l'incontro con il pubblico insieme al critico Paolo Mereghetti. Dopo la premiazione, alle 21.15, sarà proiettato l'ultimo film del maestro, Rapito. Tutti gli appuntamenti sono in programma al Kinemax. Lo sport ai mondiali di Fukuoka in Giappone, al di sotto delle attese le prove degli azzurri all'esordio nei tuffi dalle grandi altezze. Questa mattina erano impegnati anche la 21enne triestina Elisa Cosetti e il 19enne Andrea Barnaba, entrambi della Triestina Nuoto. Dalla piattaforma di 20 metri Cosetti è dodicesima dopo le prime due prove con 107 punti e 20 centesimi. Nel primo tuffo, quello che l'ha soddisfatta di più, da quanto ha dichiarato, ne aveva ottenuti 55,90. Attualmente al comando c'è l'australiana Ifland con 160 punti e 90 centesimi. Nella gara maschile Barnaba è quindicesimo dopo due tuffi dai 27 metri. Ha ottenuto 145 punti e 55 centesimi. Comanda la classifica il romeno Popovic con 232. Domani e giovedì sono in programma i tuffi liberi. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Dario Ronzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Riccardo Ostoic e Mauro Ciccarelli, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. 12:56 minuti e 30 secondi, prossima edizione alle 15. Grazie per la vostra attenzione, ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.